My name is Haptu Stefanos, and I came from Eritrea. I'm 13 years old. Mi chiamo Haptoum, vengo dall'Eritrea, ho 30 anni. Ho lasciato il mio paese 3 anni fa e sono andato in Sudan. Lì mia moglie mi ha raggiunto. Ci sono rimasto un anno, volevo lavorare, ma il governo sudanese e quello eritreo hanno siglato un accordo per il rimpatrio forzato in Eritrea. Allora abbiamo deciso di andare in Libia. That's why we decided to go to Libya. Even the Libyan government they put us in the prison. Quando siamo arrivati lì, le autorità ci hanno rinchiusi in un carcere. Siamo rimasti lì dentro per un anno intero. È trascorso un anno in galera, un anno di sofferenza, in cui mancavano anche cibo ed acqua. Una volta usciti abbiamo provato a raggiungere l'Italia, ma la strada per andarci era bloccata. È per questo che abbiamo deciso di andare in Israele. Ci avevano detto che era un buon posto per gli immigrati, ma già lungo la strada abbiamo iniziato ad avere i primi problemi. But when we come to Israel, it's just we got a problem in the way. Attraverso il deserto e il mare. Viaggi di migranti nel Mediterraneo. Il deserto. Oggi in Israele vivono circa 30.000 profughi. Provengono dall'Eritrea, dalla Somalia, dal Sudan, dal Darfur. Il loro viaggio, fatto di incontri, pericoli e scelte lasciate al caso, li ha portati in questa terra medio orientale. Non si sono presentati all'aeroporto con un passaporto. Hanno dovuto oltrepassare di nascosto la frontiera che separa l'Egitto da Israele, attraversando il deserto del Sinai. Come racconta Abtum, che da Tripoli, dove era rimasto bloccato, ha scelto di spostarsi in Israele pagando $2.000. We agreed to come here and he told us to pay $2,000. We paid for the whole way from Tripoli to Israel. I soldi servivano per l'intero viaggio, da Tripoli ad Israele, e noi abbiamo pagato. Siamo arrivati nel Sinai e ci hanno detto, questa sera andiamo in Israele, ma poco più tardi la situazione è cambiata. They took us in underground for 20 meters in the desert. Ci hanno portato in una stanza sotterranea a 20 metri di profondità, in mezzo al deserto. Siamo rimasti rinchiusi lì dentro per 2 mesi, io e mia moglie, che allora era incinta di 2 mesi. Soffrivamo di diarrea, avevamo fame e non c'era acqua. Non c'era neanche il posto per dormire. Eravamo in un carcere, legati con delle catene. Dividevamo la stanza con oltre 40 persone. Un giorno, dopo 2 mesi, ci hanno tolto le catene e ci hanno portato in un luogo dove c'era il telefono e ci hanno detto, dovete procurarvi $9.200. And they told us, you will add $9,200. All the people are choking. All the people are crying. But we don't have choice. We don't have to do anything. È stato uno shock. Ci è venuto da piangere per la disperazione, ma non avevamo scelta. Non potevamo fare nulla. Non siamo neanche riusciti a contrattare sulla cifra. $9.200, hanno ripetuto. E se non pagate vuol dire che morirete. They told us you must pay it. If you don't pay this money, you have to die, they told us. We thought we'll die here. La libertà ad Attum e sua moglie è costata in tutto $13.000. Sono state le stesse famiglie in Eritrea che hanno provveduto a racimolare ed inviare loro il denaro, contraendo debiti e rivolgendosi a istituti e chiese per prestiti. Alcune organizzazioni israeliane che si battono per i diritti dei profughi, come Physicians for Human Rights e Hotline for Migrant Workers, dopo numerosi colloqui sono riusciti a ricostruire la realtà dei campi nel deserto egiziano, all'interno dei quali i passer, spesso beduini, tengono segregati i migranti. Lunghi periodi senza né cibo né acqua, torture, violenze sessuali, sparizioni. Sono molte le persone che si trovavano a pochi chilometri dalla frontiera israeliana e che a un certo punto sono semplicemente scomparse. The journey is too bad. The Sinai. The Bedouins are killing. Il viaggio è terribile. Io non consiglierei mai né a mia moglie né a nessun altro di venire qui. Kabnum è un uomo eritreo ed è passato anche lui attraverso quel confine. Oggi si trova in Israele, dove aiuta i parenti delle persone di cui si sono perse le tracce a cercare i propri cari. I hear so many guys are lost. The lost guys are, there are three options. Ho sentito tante storie di persone che si sono perse lungo il cammino. Le possibilità sono tre. O sono dall'altra parte della frontiera, o si trovano nelle mani dei beduini, o sono reclusi nelle carceri egiziane. I parenti dei dispersi vivono nell'angoscia, li cercano disperatamente e io sono qui per dargli una mano. Facciamo tutto il possibile per sapere dove si trovano, ma il fenomeno è talmente vasto che risulta difficile. Sono moltissime le persone che mancano all'appello, che si sono perse lungo il tragitto. We get an idea. There are a lot of people are lost in the way. Allora abbiamo iniziato insieme ad un'altra ONG questo lavoro per aiutare chi ha perso le tracce di un proprio familiare, di un proprio conoscente. For those who lost guys. Chi riesce a procurarsi denaro e a fuggire dalle carceri segrete del Sinai si trova davanti ancora un altro ostacolo, l'attraversamento della frontiera. Ad attendere i migranti ci sono due recinzioni di filo spinato che corrono lungo il deserto, sorvegliate dai militari israeliani ed egiziani, che hanno l'ordine di sparare a vista. The place that you are crossing is a little bit similar to this one. Si attraversa da un punto simile a questo, non so esattamente dove si trova, ma assomiglia molto a questo. Recentemente Kabdoum è ritornato sulla linea di confine che separa Israele dall'Egitto, cercando i luoghi da cui era passato. Insieme a lui c'erano due attiviste dell'associazione israeliana Active Vision, a cui ha raccontato del suo attraversamento. Siamo arrivati nella notte del 9 novembre. I beduini ci hanno portato fino alla frontiera, ma lì abbiamo sentito da lontano le voci dei soldati egiziani. Anche loro ci sentivano. Li vedevamo mentre ci cercavano, con gli occhiali a infrarossi. The Bedouins say it's not safe to cross today. Let's change another day. They turn back to afar. I beduini allora ci hanno detto che non era sicuro attraversare quel giorno, che sarebbe stato meglio aspettare. Ma la sera dopo le cose sono andate nello stesso modo. I soldati ci hanno visti e siamo dovuti tornare indietro. Il terzo giorno ci hanno fatto salire su delle macchine e nuovamente siamo andati alla frontiera, vicino alla recinzione. How we pass through this fence. Ci hanno lasciati lì. Le macchine sono andate via e noi abbiamo attraversato il confine. Non so come abbiamo fatto a scavalcare il filo spinato. Non lo so, non me lo ricordo proprio. Sono grandi, alte, fanno paura. My clothes are all tiered and left in the fence. This is the only thing that I remember it. Le ho viste e sono passato. I miei vestiti sono rimasti appesi al filo spinato. È l'unica cosa di cui mi ricordo. Non solo i miei vestiti, ma anche quelli degli altri. Una volta in Israele ci hanno subito arrestato. Ecco, questo è il viaggio che abbiamo affrontato. Ci hanno portato alla frontiera ed alla fine ci hanno detto dovete correre in questa direzione senza mai tornare indietro. Anche se la polizia spara, non dovete tornare indietro. Anche Abtoum si è trovato di fronte al filo spinato e anche lui ha incontrato i soldati egiziani. Abbiamo fatto quello che ci avevano ordinato. Ci hanno detto correte verso quella luce ed abbiamo iniziato a correre. Abbiamo attraversato una strada, ma i soldati egiziani ci hanno visto ed hanno iniziato a sparare. Sparavano e noi siamo passati in mezzo, correndo lungo una linea di 100 metri. Then we met the Egyptian soldier, they shoot us. But nobody is dead. Nessuno è morto. Eravamo un gruppo di 23 persone. Dovevamo attraversare due recinzioni. Alcuni sono strisciati sotto, altri sono saltati così, sopra il filo spinato. È stato molto difficile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. C'erano soldati qua e là, ma siamo passati. There is a soldier here and there is a soldier here. There's 100 meter. We pass over. Thank you. Una volta in Israele, Abtum, sua moglie e Kabdum, come tutti coloro che attraversano illegalmente la frontiera, sono stati condotti nel carcere di Xayot, nel deserto del Negev. Un carcere dove i migranti possono essere detenuti a tempo indeterminato. Uomini, donne e bambini, traumatizzati dal viaggio che hanno dovuto affrontare, rimangono lì per settimane, mesi, a volte anche anni. Oggi Abtum e Kabdum sono liberi, ma la loro vita in Israele è molto difficile. Ogni 3 mesi devono rinnovare un permesso di soggiorno che non gli consente neanche di lavorare. Nonostante lo Stato israeliano abbia firmato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, non esiste uno status legale specifico per i profughi. Senza nessun aiuto da parte dello Stato e privi dei diritti fondamentali, come quello alla salute, i profughi sopravvivono facendo lavoretti in nero, come Abtum, il cui figlio nascerà a giorni. Non so come sono iniziati i viaggi verso Israele. Oggi tutti i rifugiati che si trovano in Sudan vanno prima in Libia e poi in Israele. Chi è stato il primo? Come ha fatto? Perché? Prima nessuno veniva qui. Adesso invece ci sono anche tantissimi eritrei. Sfortunatamente qualcuno ha avuto l'idea di venire qui. Chi è stato? Nessuno lo sa, neanche io. Nobody can know. I don't know. Myself, I don't know how it starts. Who started? Nei primi tempi per il viaggio ci volevano $600, ora possono chiedere anche fino a $20,000. Come si fa a pagare? Non lo so. Tante persone sono morte, avvengono tante torture, tanti stupri. It's amazing. So many guys are dead. So many tortures are happening. So many rapes are expressed. Il mare. احكيلي انا بالعربي انا ما ترجم بالانجليزي يا اخي السلام عليكم he said hi how are you مرحبا بكم هنا في في welcome to a greeks you and you yes اننا سعيدين جدا بك and you are very happy when you come to here and to talk to him In Grecia vive più di 1 milione di migranti. La maggior parte di loro considera il paese solo una terra di passaggio, una porta di accesso alla vera Europa. Dopo la firma dell'accordo tra l'Italia e la Libia, con cui il nostro paese ha respinto migliaia di migranti sulle coste nordafricane, il numero delle persone che passano per il territorio greco è drasticamente aumentato e la loro provenienza si è diversificata. Agli afghani, iracheni, pakistani e iraniani si sono aggiunti migliaia di africani. Le loro storie sono tutte diverse e ciascuna è, a suo modo, unica. Ma io sono partito dall'Afghanistan, diciamo, 3 anni fa che sono partito. Najibullah vive ad Ancona, uno dei porti del Mar Adriatico da cui entrano molti migranti provenienti dalla Grecia. Najibullah è arrivato con un traghetto nascosto dentro un tir. 3 anni fa ha lasciato l'Afghanistan ed è partito alla volta della Turchia, attraversando l'Iran. Da questo paese però è stato rimpatriato. Ha fatto un secondo tentativo e questa volta ce l'ha fatta. Siamo arrivati a Turchia, però di là c'era una persona che io ho pagato, che lui mi ha portato in Turchia. Però stavo con lui di là 15 giorni ancora. Però dopo dei 15 giorni hanno preso i biglietti per gommone, stavamo 7 persone su questo gommone. La sera c'era ora alle 2 di sera, ero molto freddo, però stavamo 7 persone sulla, quel gommone andavamo verso la Grecia. Siamo partiti alle 2 di sera, siamo arrivati di là alle 8 del mattino con i remi, capito? Erano tutti ragazzi stanchi, alcuni piangevano, capito? L'acqua era brutta, capito? Però 15 metri abbiamo nuotato, capito? Quando siamo arrivati verso la terra di Grecia, no? Non funzionava le gambe e mani, capito? Stavamo di là, a un giorno stavamo di là, capito? Senza mangiare niente. Però piano piano siamo partiti verso Atena. La terra greca di cui parla Najibullah è l'isola di Lesbos. Tre anni fa, quando ha iniziato il suo viaggio, era un passaggio praticamente obbligato per entrare in Grecia. Oggi invece i serrati controlli nel mare Egeo, svolti dall'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere Esterne, Frontex, costringono i migranti a cercare un'altra rotta. Attraversano il fiume Evros in Tracia, la regione greca che confina con la Turchia, come hanno fatto 128.000 persone nel 2010, passaggio obbligato per raggiungere Atene e da lì Patrasso e Igoumenitsa, i due porti che affacciano sull'Adriatico. Di là sono stato un mese e mezzo, dopo sono andato a Patrasso. Non avevo soldi pure, però stavo di là circa 20 giorni così. Andavo da solo nel porto, capito? Mi mettevo nel camione, però quando andava camione nella barca, carabinieri controllavano. Mi guardavo, via. Mi dicevo via, vai indietro, però scappavo. Però un giorno sono riuscito, stavo sopra del camione, il camione è salito nel nave, sono arrivato al porto di Ancona. Il viaggio di Najibullah è stato difficile, ma ce l'ha fatta. Al suo arrivo ad Ancona, la polizia non l'ha scoperto e non l'ha rinviato indietro, come invece succede quotidianamente a molti ragazzi. Lo racconta Margherita, attivista dell'Ambasciata dei Diritti, una rete di associazioni delle Marche. Quello che succede nei porti dell'Adriatico è frutto di un accordo che risale al 1999 fra l'Italia e la Grecia, che travalica la normativa nazionale e internazionale e che si chiama appunto accordo di riammissione, che fa sì che le persone che arrivano al porto di Ancona, se si dimostra che abbiano soggiornato o transitato in Grecia, l'Italia ha il diritto e il dovere di riammettere questa persona in Grecia, senza, è proprio citato in questo accordo, senza alcuna formalità, nel senso che non è ravvisabile traccia di questa riammissione né nei verbali della polizia di frontiera, né quindi viene dato un documento alla persona in questione. Insomma, sono degli invisibili, non ci sono mai stati. Tant'è che parlando con la polizia di frontiera, un'associazione che collabora con noi, lo scorso anno con la polizia di frontiera greca è venuta a conoscenza del fatto che quasi 4.000 persone nell'arco del 2009 erano state riammesse. Queste persone vengono rimandate indietro. Non perché viene valutato che non hanno diritto all'asilo, ma perché non gli viene data la possibilità di chiederlo. Ad Ancona, così come a Venezia, a Bari, a Brindisi, è difficile sottrarsi ai controlli della polizia. I porti sono blindati e spesso chi arriva è respinto nel porto greco da cui è partito, che anch'esso altamente sorvegliato. Secondo la dottoressa Polixenia Andreadou, in Grecia la situazione è addirittura peggiorata negli ultimi mesi. 5-6 years ago there were also refugees, but these people, you saw them 2 months, 3 months, then they passed. Anche 5 o 6 anni fa c'erano rifugiati, ma a quei tempi stavano qui 2-3 mesi e poi riuscivano ad andarsene. Adesso invece le cose sono cambiate. Ci sono persone che sono qui da 2 anni, a volte addirittura da 3, e non riescono a scappare. There came also more people. There were not so many people as there are now here. C'è anche da dire che arrivano molte più persone rispetto al passato. Credo che tanti provengano da Patrasso e da Atene. Vengono qui perché pensano che dalla nostra città sia più facile raggiungere gli altri paesi europei. Ma questo non è assolutamente vero. La frontiera è chiusa. La frustrazione dei migranti che vedono svanire la speranza di partire giorno dopo giorno è sempre più forte e sono frequenti tentativi di fughe disperate, come quelle dei 5 pazienti di Polixeni. Dopo aver provato diverse volte senza successo a sfuggire ai controlli del porto, i 5 hanno provato a raggiungere l'Europa via terra, attraverso l'Albania. Il modo in cui hanno tentato la fuga, scusatemi se rido, è veramente ridicolo e dimostra quanto sono disperati. Sono venuti e mi hanno detto: dottore, proviamo ad andare in Albania. Ma come farete? Gli ho chiesto. Ma poi mi sono detta: ok, io sono un dottore, non posso dire nulla riguardo a questa scelta. Così sono partiti e solo poche ore dopo mi hanno chiamato dalla prigione della frontiera, a 25 chilometri da qui. Avevano semplicemente preso l'autobus. Sono saliti su un autobus e hanno attraversato la frontiera. Sono scesi dal mezzo e hanno provato a prendere un taxi per andare non si sa dove. E stiamo parlando di ragazzi con la pelle totalmente nera. Non si sa come pensavano di farla franca. Questo episodio vi fa capire quanto sono disperati. What can I say about this? Yes. They are really so desperate. They are all still here. It's 6-7 months ago this. In tutti i porti che affacciano sull'Adriatico i controlli sono aumentati, come racconta Mariani, un attivista di Patrasso dell'associazione Chinisi. Stanno facendo controlli al porto, nelle navi e sui tir, mirati a scovare i migranti che viaggiano illegalmente. Quando li trovano, li arrestano e li mettono in prigione, ma dopo pochi giorni li rilasciano, perché non possono detenerli a lungo, ma non possono neanche deportarli. They cannot have their papers, but they cannot also be deported. So they just release them. And this can happen 3, 4, 5, 10 times. Perciò li fanno semplicemente uscire e questo entra e esce si può ripetere 3, 4, 5, 10 volte. Le persone vengono anche fermate per strada. Se sono colte a camminare per Patrasso senza documenti, vengono arrestate. Li rinchiudono in prigione per giorni, a volte mesi, ma poi li lasciano senza fare nulla. Questa è la procedura. We also know that police and especially the port police is having a very bad behavior against. Sappiamo anche che la polizia, soprattutto quella del porto, si comporta molto male. Gli sequestrano i soldi e i telefonini, li picchiano. E queste cose accadono molto, molto spesso. Youssef è un ragazzo algerino. Questo è il racconto che ha fatto quando è uscito dalla cella della stazione di polizia. Moi, j'ai avec mon copain. Ils ont garé les policiers. Et après, il dit, donnez-moi ton papier, moi j'ai pas de papier. Il rentre en prison. Ero con un amico, una macchina della polizia si è fermata ed i poliziotti mi hanno chiesto i documenti, ma io documenti non ne avevo. Mi hanno portato in carcere e dopo 4 giorni mi sono ammalato. Ho chiesto ai poliziotti le medicine e non me le hanno date. Allora siamo andati all'ospedale e lì il dottore mi ha dato una ricetta per comprare le medicine e mentre tornavamo alla prigione mi hanno picchiato, sia in macchina che in cella. Non mi hanno mai dato le medicine e quando io le ho richieste un'altra volta mi hanno di nuovo picchiato in faccia, in 3, e poi mi hanno anche torturato con delle scosse elettriche. Sono stato lì dentro 15 giorni. E après il frappe dans le avec l'électricité avec ici dans mon dos. Il est e 4 polizie frappe ici avec les yeux. In Grecia si sono registrati e si registrano ogni giorno atti di razzismo da parte dei locali a danno dei migranti. Alle violenze perpetrate dalla popolazione si aggiungono quelle della polizia. A inizi maggio, a Igoumenitsa, una manifestazione antimigranti è sfociata in un vero e proprio attacco ai rifugiati, aggrediti prima dai manifestanti e poi dalla polizia. Nel solo mese di maggio sono state arrestate più di 600 persone. A giugno, poi, le autorità greche hanno deciso di sgomberare la tendopoli. Lo sgombero è avvenuto all'alba e si è trasformato in una caccia all'uomo. I migranti vivono in un limbo senza uscita. Non riescono ad andare avanti, ma non possono neanche tornare indietro, perché molti di loro sono scappati da paesi in guerra, in cui la loro vita è in pericolo. Come Ali, un ragazzo afghano che vive a Patrasso, in una piccola capanna di cartone, costruita a ridosso della strada che conduce al porto. Ali non vuole dire la sua età, ma avrà poco più di 14 anni. Ogni giorno tenta di arrampicarsi su un tir, nella speranza di arrivare in Italia. I came from Afghanistan and it's taken a lot of way and it's taken a lot of across a lot of dangerous thing and I arrive here. Vengo dall'Afghanistan, ho percorso una strada molto lunga, ho superato tanti pericoli e sono arrivato qui. Chiedo al governo greco di prendersi cura di noi. In Afghanistan vivevo in montagna, in un piccolo villaggio. La mia era una vita semplice, come quella di molti miei compaesani. In Afghanistan is not safe. Taliban, American people. Ma alla fine non si stava più tranquilli. Non eravamo al sicuro per colpa dei talebani e degli americani. Dicono che l'Afghanistan sia degli afghani, ma io non credo che sia così. Gli afghani se ne sono andati tutti. The family want to leave their children. Le famiglie dicono ai figli di andarsene. Gli danno i soldi per affrontare il viaggio. Sperano che quando li rivederanno la prossima volta si troveranno a vivere una vita migliore, forse. When they see them again, maybe they have a good boy or see a person who develop. Nessuna delle persone che abbiamo incontrato nel corso del nostro viaggio ha intenzione di rimanere in Grecia. Vogliono tutti andare in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in qualsiasi altra nazione che non sia la Grecia, un paese che anche Polixenia Andreadou, la dottoressa di Gumeniza, non esita a definire un carcere a cielo aperto. Unfortunately, a lot of people, I have to say it because they tell this to me. They come to Europe because they don't know about Europe. Sfortunatamente molte persone quando arrivano in Europa non sanno cosa li aspetta. Lo so perché me lo raccontano. They said to them, okay, you pay this money, you pay $10,000, we pass you. The only problem is to pass to Greece. We pass you from Turkey to Greece. When you pass to Greece, finished. All the way is open. Molti ragazzi che arrivano qui a Igoumenitsa mi hanno raccontato che quando sono partiti alla volta dell'Europa, i passeur gli hanno detto «dacci $2,000 e ti facciamo passare dalla Turchia alla Grecia». Tanto è solo quello l'ostacolo principale. Una volta che passi, tutte le strade sono aperte. E loro ci credono davvero. Molti non sanno che dalla Grecia è difficilissimo raggiungere altri paesi europei come l'Italia o la Germania, né tornare indietro. Greece is a great prison for me, a big prison, and the people here are inside, the refugees are inside, they are desperate, they don't know what to do. A me sembra che la Grecia sia una grande prigione. Io ho questa sensazione, che la Grecia sia una grande galera che detiene una marea di migranti disperati che non sanno cosa fare. Inoltre la crisi economica ha contribuito a peggiorare la situazione. Le persone sono diventate intolleranti nei confronti degli stranieri. Io credo che oggi l'unica soluzione sia aprire le frontiere. I think the only solution is to open the borders. No border, no nation. Avete ascoltato Attraverso il deserto e il mare, documentario audio a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet. Un progetto realizzato in collaborazione con Active Vision e Servizio Civile Internazionale, con il sostegno della Annalyn Foundation.